Europa 24. Un saluto da Gigi Donellico. Oggi cominciamo da Parigi, dove è in corso una riunione che ha lo scopo di creare un'authority dell'Unione Europea per sanzionare eventuali conflitti e abusi con i colossi del web, in particolare Google, Amazon, Facebook, fare in modo che non sfuggano alle tasse nell'Unione Europea. Questo è l'obiettivo di fatto del mini vertice sull'economia digitale che si apre in questi minuti a Parigi in presenza dei responsabili dei paesi UE più importanti, più grandi quantomeno, Francia, Italia, Spagna, Germania, Regno Unito. L'incontro è stato fissato in vista del vertice europeo del 24 e 25 ottobre che sarà consacrato per la prima volta a questi temi. Ecco, una riunione a cui dovrebbe partecipare anche la commissaria europea alle nuove tecnologie Nelly Kroes. E ora invece possiamo sentire Michel Barnier. Ieri è stato con noi, ha parlato della battaglia, dunque lo sentiamo, dice la battaglia per l'impiego, per l'occupazione, per la crescita e la competitività, ma Barnier è stato anche con noi per rilanciare questo che è il mese del mercato unico. Ha di fatto lanciato un appello invitando gli imprenditori, piccoli, grandi imprenditori, insomma la forza attiva dell'Europa a contribuire nei prossimi 30 giorni con delle idee per cambiare l'Europa. Forse l'avrete notato, registrato, insomma siamo alla fine di un settennato, la primavera prossima porterà probabilmente il primo presidente della Commissione eletto direttamente attraverso, diciamo meglio indirettamente attraverso il voto del Parlamento e quindi la decisione sulla presidenza della Commissione, tempo quindi di sintesi, e Barnier, che è responsabile del mercato unico, che si unisce a questa richiesta. I temi che si vogliono affrontare sono sì quelli appunto dell'occupazione, ma anche del mercato digitale, dei diritti sociali e naturalmente il settore bancario. Questo dialogo viene naturalmente sostenuto attraverso il web. Se passate tra circa una mezz'ora sul sito di Radio 24 troverete tutti i dettagli per come rispondere e favorire appunto il dialogo. E ora cambiamo ancora tema. Il 1 luglio scorso la Croazia, lo ricordate, è diventata la 28ª nazione a far parte dell'Unione Europea, un processo di allargamento che è iniziato di fatto il giorno stesso in cui i primi sei nel nucleo originario, quindi Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Germania, si unirono oltre 50 anni fa. Ecco, ai confini dell'Unione però ci sono paesi che vengono coinvolti attraverso trattati di associazione, accordi bilaterali. Uno di questi, di cui si è parlato parecchio ultimamente, è l'Armenia, un paese eurasiatico a cavallo di fatto tra due mondi, che soltanto qualche giorno fa invece ha annunciato una svolta. Si parlava di trattative per ulteriori avvicinamenti all'Unione Europea, invece le cose sono andate diversamente. Sentiamo il servizio. La posizione geografica non ha spinto l'Armenia verso l'Europa, chiusa a ovest dalla Turchia, con la quale i rapporti non sono mai stati idilliaci e che a sua volta si sta allontanando dal vecchio continente, e circondata a est e a nord da paesi che stanno o sono già rientrati nell'orbita russa. E forse nemmeno i tempi lunghi che Bruxelles dedica ai colloqui hanno aiutato. I negoziati di libero scambio con l'Unione sono andati avanti per mesi. La firma era attesa per novembre. All'inizio di settembre, però, il presidente armeno Sarkisian è volato a Mosca per un incontro a porte chiuse, annunciato solo tre giorni prima, con il presidente Putin. Al rientro nella capitale, Erevan, il premier ha annunciato il cambio di rotta. Addio alla zona di libero scambio europea. Benvenuta area di libero scambio commerciale eurasiatica. I dettagli dell'accordo non sono noti, ma è noto l'intento del Cremlino di creare un'unione economica e forse anche politica con al centro la Russia. Cosa sia accaduto prova a spiegarlo Michael Kambek, segretario generale dell'Organizzazione Amici Europei dell'Armenia. Si sono scontrati due interessi diversi. L'Europa vuole vicini stabili, la Russia punta su una influenza diretta. Dunque Mosca non può tollerare un accordo con l'Europa, afferma Kambek. Dall'annuncio degli armeni sembrerebbe che loro desiderino ancora un accordo che comprenda i diritti umani e la democrazia. Ma il mercato ha deciso per loro, non hanno avuto scelta. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene, per oggi è tutto. Europa 24 torna come sempre domani intorno alle 13:15. Un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.